Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto. Come sempre, alcune informazioni di servizio molto rapide. La prima e la più importante è la possibilità di visitare il nostro sito radio24.it, abbonarsi anche al podcast, scaricare tutte le puntate di tutte le trasmissioni. Lì troverete anche sotto il mio profilo il blog Guardie o Ladri, che oramai conoscete un po' tutti. Potete accedervi anche attraverso l'home page del Sole 24 Ore. L'ultima informazione è quella relativa alla nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. A questa mail si è rivolto il nostro radioascoltatore di Brembate Sopra, ci troviamo quindi in Lombardia, provincia di Bergamo, che ha segnalato un caso, diciamo così, di incomprensione, di difficoltà comunque dialettica, di rapporti, proprio nel momento in cui stava per nascere il rapporto appunto con una banca. Una banca che è una banca di credito cooperativo, quindi un sistema, diciamo così, che ha la base anche del sistema creditizio e finanziario del nostro paese, ed è la banca di credito cooperativo di Sorisole e Lepreno, quindi ci troviamo appunto in provincia di Bergamo. Il caso è abbastanza curioso, perché sembrerebbe che ci troviamo di fronte ad una firma messa ma non messa, insomma una cosa un po' complessa, che però siamo qui per affrontare attraverso la viva voce del nostro radioascoltatore Remo Riva. Buongiorno Riva. Buongiorno. Del direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno, il dottor Roberto Baglioni. Buongiorno Baglioni. Buongiorno a voi. E poi abbiamo anche gradito ospite ancora una volta il presidente di Adusbef, il senatore oltretutto dell'Italia dei Valori, Elio Lannutti. Buongiorno Lannutti. Buongiorno. Allora, Riva, racconti un po' quello che le è successo, perché credo che sia qualcosa che sarà successo a moltissimi, ovviamente non con questa banca, ma nei rapporti, nel momento in cui si instaurano i rapporti con un istituto di credito. Prego Riva. Allora, a dicembre mi sono presentato per aprire un conto corrente presso la banca. Richiedo un prospetto informativo e mi viene negato. È dato solo dopo firmato il contratto, così mi dicono. Vabbè, do ugualmente i miei dati, però non firmo nulla, mi raccomando, eh. Rimane tutto sospeso per ulteriori informazioni. Mi richiamano alcuni giorni dopo, ma ho deciso di lasciar perdere il tutto e non mi ripresento. Non ho firmato nulla, quindi sono tranquillo. Quindi ho preso nessun impegno, pensavo. A dicembre mi viene recapitato ugualmente l'estratto conto, con un addebito di spese di 2,50 euro. A gennaio altro estratto conto, con un addebito di 8 euro. Avendo preso nessun impegno con la banca, penso che la cosa sia ingiusta. Uno può sempre cambiare idea, finché non ha firmato un contratto. Ecco, una cosa arriva. Lei è sicuro di due cose. Primo, perché questo qui è importante affinché ci sia poi la replica del dottor Baglioni. Primo è che lei ha chiesto un prospetto informativo che le è stato negato, o meglio le sarebbe stato concesso dopo la firma del contratto. Sì, così? L'impiegato mi dice tanto non ha firmato nulla, cosa vuole? Benissimo. Seconda cosa, lei è sicuro di non aver apposto alcuna firma presso alcun foglio di carta o contratto che esso sia? No, io in mano ho proprio niente, ho fatto nessuna firma e la cosa è finita lì per me. Va bene, allora però si trova poi un addebito in conto corrente, compreso ovviamente lo scoperto. Allora, Baglioni, questa è la denuncia del nostro radioascoltatore. Le fa onore essere qui, perché devo dire che nei rapporti con le banche spesso le chiamiamo ad interloquire, ma stranamente fanno un passo indietro. Qui si sta per capire, invece, non per accusare. Allora Baglioni, come spiega quello che è accaduto? Ma diciamo che ho una versione. Bene, innanzitutto partiamo dalla fine, se mi è consentito. Prego. Nel senso che la vicenda, per quanto ci riguarda, è chiusa, perché il signor Riva ha scritto martedì 26 gennaio attraverso il nostro sito, che sono richieste che arrivano direttamente sulla mia scrivania. Ho chiesto ai colleghi della filiale cos'era successo, in due giorni gli è stato rimborsato, erano generati 18,25 euro, è stato estinto il conto, c'è stata questa incomprensione, quindi diciamo parliamo di una situazione risolta. Certo. Per quanto riguarda la partenza, le risultanze che ho io qua, il fascicolo del cliente, il cliente giustamente ha fatto una serie di visite in filiale chiedendo le informazioni, foglio informativo, le informazioni dei vari prodotti. Il 24 novembre ha lasciato carta d'identità e codice fiscale, queste sono le mie risultanze e li ho qua davanti a me, e ha detto ai colleghi: va bene, mi avete convinto, apritemi il conto che passo nei prossimi giorni a firmare. Allora c'è quindi una fotocopia che voi avete... Sì, io la fotocopia del documento. Benissimo. Del cliente e il codice fiscale. Allora, quindi doveva ripassare per firmare un contratto. Anche perché, se mi consente, dottore, per avere il foglio informativo non è necessario firmare nulla né dare un documento, chiunque può venirlo a chiedere per la trasparenza. Però qui ci troviamo di fronte a due versioni, l'una che dice, quella del nostro radioascoltatore, che il prospetto gli è stato negato, e lei che invece dice che il prospetto è naturale che lo si dia. Anche a me sembra naturale, però noi abbiamo una parola contro l'altra. Certo. Però ecco, andiamo al momento in cui lei dice il nostro possibile cliente, che poi non è diventato tale, ci ha lasciato i dati, ma poi è passato È stato un modo per sburocratizzare, ha detto: tanto abito qua i colleghi, poi che chi lavorano lo conoscono di vista, hanno detto: beh, non è uno che è qua per truffarci, va bene, attiviamo tutto. Poi hanno cominciato a chiamarlo. Ma ha firmato o no? No, perché ha detto che sarebbe passato in una fase successiva, visto che ormai, giustamente, ci sono un sacco di documenti da firmare, tra cui per esempio l'attivazione del contratto per il trading online. Gli hanno anche aperto, ma aspettavano la sua firma. Ho capito. Quindi hanno continuato a inseguirlo, non si è fatto vedere. Ok, quindi lei è d'accordo sul fatto che non c'è stata alcuna firma apposta ad alcun contratto, ma semplicemente una dichiarazione verbale, cioè una volontà. Il collega ha voluto fare chiamiamolo un atto di fiducia. Tanto benissimo. So chi è questo signore, di vista lo conosco. Benissimo. Che passa nei prossimi giorni. Benissimo. Allora, dottor Riva, lei si riconosce in questa ricostruzione? Dunque, semplicemente l'impiegato non mi conosce affatto, anche se sono di Brembate, la filiale di Brembate. Secondo, io non avevo promesso un bel niente, ero semplicemente lì per informazioni, ho dato i miei dati come giustamente mi hanno chiesti e la cosa per me è finita lì. Io non ho manifestato nessuna intenzione di ripresentarmi per porre le mie firme. Ho capito. Allora, è molto semplice. Allora, dottor Baioni, non posso pensare che sia ovviamente un'abitudine nella vostra banca. In maniera più assoluta. Esattamente. Ma vediamolo veramente come un atto di fiducia. Tant'è che poi, quando il signore ha scritto... Quando lo chiamavano i colleghi a casa, se avesse risposto, l'annullavamo in due minuti. Guardi che per importi di questo genere io ogni mese, purtroppo c'è qualcuno poi che sparisce, per altri motivi noi azzeriamo questi importi. Non è neanche nella nostra logica pensare di speculare su queste cose. Benissimo. Allora, né tantomeno voglio farlo io, perché, ripeto, qui abbiamo semplicemente messo di fronte un caso che secondo me è, non dico quotidiano, ma lei stesso ce lo sta dicendo, che in realtà ne capitano tante. Se ne capitano tanti di questi casi per una piccola banca di credito cooperativo, figuriamoci per quelle più grandi. Allora io voglio chiedere un giudizio ed un commento sereno ad Elio Lannutti, presidente di Adusbef, su questa tipologia che credo non sia così infrequente. Lannutti, come commenta questa storia? La commento perché non è infrequente, come ha detto lei. Ci sono casi in cui vengono aperti conti correnti all'insaputa dei correntisti, questo è un caso emblematico, in quanto bisogna mostrare la volontà di aprire un conto corrente. La volontà si perfeziona con la firma. Se poi le banche ci provano, perché da questa mancata firma poi addebitano spese e interessi, e voglio ricordare che sono casi molto molto frequenti, capitano anche a noi molti reclami che arrivano da parte anche di grandi banche per aumentare la clientela. Diciamo così, che poi si capovolge l'onere della prova. No? Sono argomentazioni. Fa onore al direttore che certo. Non è scappato come in genere i banchieri scappano. Assolutamente, infatti glielo ho riconosciuto per primo. E gli fa onore. Certo. Però sempre questa prassi di questi banchieri che magari quando uno va a chiudere un conto corrente ci mettono 6-7 mesi sempre per addebitare spese, interessi, e noi abbiamo pile di reclami in questo genere, e poi magari che ti aprono i conti correnti. Le banche dovrebbero essere un momentino più trasparenti, più attenzioni, e essere fare più attenzione, più attenzione alla volontà del cliente, perché i clienti non sono il cliente è il tesoro delle banche quando li si maltratta. poi magari non vanno più. Esatto, allora io ringrazio Lannutti per il suo commento, grazie anche a Baioni, e arriva il nostro radioascoltatore, e Baioni invece è il direttore generale della BCC di Sorisole e Lepreno, siamo in provincia di Bergamo. Ringrazio in regia Paolo Corleoni e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.